Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Che belle parole, Gesù. Veramente non possiamo scoraggiarci mai. Perché? Perché anche se abbiamo peccato, c'è sempre la misericordia di Dio che è molto più grande e superiore al nostro peccato. Anzi, oggi vorrei proprio invitarvi a questo, invitarvi a riconoscere il proprio peccato e non più ad avere i sensi di colpa. Purtroppo oggi noi non viviamo più il senso del peccato, ma siamo pieni di sensi di colpa. E qual è la differenza tra il senso di colpa e invece la consapevolezza del peccato? Il senso di colpa è quella tortura che ci facciamo da soli. È quel rimuginare continuo che ci fa ritornare sempre sugli errori commessi e provando quasi una certa disperazione perché sentiamo di aver diminuito il nostro valore, perché ci vergogniamo di noi stessi, perché ci sentiamo inadeguati, ci sentiamo troppo meschini, troppo bassi, troppo inferiori a tutto e a tutti. E il senso di colpa quindi ci atterra, ci butta giù, e ci fa voler rimediare a tutti i costi, insomma, ci ammazza. Invece il senso del peccato non è così. Il senso del peccato è sì riconoscere di aver sbagliato, ma sapere che la misericordia di Dio, il perdono di Dio è molto più grande del nostro peccato. E questo ci lascia una pace indescrivibile, unica. E inoltre il senso di colpa è tutto incentrato su noi stessi, sull'orgoglio. Io che devo valere, io che devo essere primeggiare, io che devo essere sempre bravo. E quindi quando verifichiamo che non è così, ci sentiamo male e cerchiamo a tutti i costi di rimediare e quindi ci torturiamo. Quindi il senso di colpa si basa sull'orgoglio, io, il mio prestigio, il mio valore. Il senso del peccato invece si fonda su Dio. Io mi dispiaccio di aver sbagliato non perché ho diminuito il mio valore, ma perché non ho corrisposto a quell'amore infinito di Dio nei miei riguardi. E questo mi dispiace, ma sono nella pace perché sono convinto che il Signore mi ama e il suo amore è molto più grande del mio peccato e quindi ho la pace interiore. E il Signore oggi ci vuole confermare proprio questo. Gesù che mangia con i peccatori, con i pubblicani, e perché fa questo? Perché Gesù odia il peccato, ma ama il peccatore. Invece noi facciamo il contrario. Noi odiamo i peccatori e amiamo il peccato. Allora cerchiamo invece di rettificare la cosa. Dobbiamo amare i peccatori e odiare il peccato. Invece noi facciamo proprio l'opposto. Allora il Signore oggi ci vuole insegnare questo: non guardare il peccatore con l'odio, perché l'odio lo devi rivolgere al peccato, non al peccatore. Guarda il peccatore come lo guardo io. Guarda il peccatore con uno sguardo di amore e tu riuscirai a creare in lui una rispondenza, a guarirlo, a sanarlo, perché l'amore guarisce. Facciamoci penetrare dallo sguardo di amore di Dio, impariamo da lui a guardare le persone, a guardare ogni uomo non solo per quello che è, ma anche per quello che è chiamato ad essere. E per ultimo vi cito un aforisma che vi ho detto altre volte, ma è talmente bello che ogni tanto fa bene ricordarlo. Per ogni santo c'è un passato, per ogni peccatore c'è un futuro. Buona giornata.